Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Mangiare di gusto, avere buon gusto, ridere di gusto, prendersi il gusto, prenderci gusto. Buongiorno a voi da Nicoletta. Oggi gusteremo insieme questa puntata e cercheremo di capire come e perché per vivere bene ci vuole gusto. Gusto per quello che mangiamo, per quello che ascoltiamo, vediamo, tocchiamo. La felicità sta nel gusto e non nelle cose. Si è felici perché si ha ciò che ci piace e non perché si ha ciò che gli altri trovano piacevole. François de la Rochefoucauld. E in linea con noi la professoressa Alessandra Graziottin, direttore del centro di ginecologia all'ospedale San Raffaele Resnati. Buongiorno dottore, professoressa. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Professoressa, oggi lei ci accompagnerà a conoscere più da vicino i meccanismi che stanno alla base del gusto, inteso come senso, ma direi anche come scelta, come attenzione, curiosità nei confronti di quello che la vita ci offre. Perché la vita, professoressa Graziottin, va gustata, assaporata lentamente. In una società che è sempre più frenetica, il piacere del gusto è un piacere che ci riporta a un grande lusso, che è il lusso dell'attesa, quando noi prepariamo il cibo con cura, il lusso dell'attesa quando noi annusiamo prima e pregustiamo quello che mangeremo, grazie al fatto che olfatto e gusto sono sensi chimici e quindi utilizzano le stesse molecole per interagire con l'ambiente, ma anche per dirci chi siamo, chi sono gli altri che hanno cura di noi, chi sono gli altri che cucinano con amore per noi fino a quando siamo piccoli, se abbiamo questa fortuna, e poi da grandi come di nuovo condividere il momento di intimità intorno alla tavola, che ci consente anche di condividere quelle riflessioni sulla vita che poi ci danno quella che è una scrittrice inglese chiama The Kitchen Table Wisdom, la saggezza del tavolo da cucina, attraverso la quale noi trasmettiamo nelle generazioni il sapere e i valori della vita. Chi di voi mi sa dire la differenza, ad esempio, tra gusto e sapore? Ce lo facciamo raccontare dal dottor Mario Pellicano, ricercatore all'Istituto di Scienza dell'Alimentazione al CNR di Avellino. Buongiorno dottor Pellicano e benvenuto. Buongiorno. Allora, gusto e sapore. Allora, gusto e sapore. Il senso del gusto riconosce 5 sensazioni: dolce, salato, acido, amaro e umami. Ed è ben conosciuto. Il sapore, invece, riguarda l'insieme delle sensazioni gustative, olfattive ed altre sensazioni chimiche, come il piccante e l'astringente, percepite durante la masticazione di un alimento e la deglutizione del bollo alimentare e a volte anche dopo la deglutizione. Come ben vede, sono due cose completamente separate e distinte. Invece, diciamo, nel parlare comune, a volte, diciamo, gusto e sapore si utilizzano come sinonimi. Faccia un esempio. Per esempio, se io dico sapore di pane. Sapore di pane è una sensazione complessa, di non facile definizione. Mentre, se dico il gusto del pane, il gusto del pane è generalmente salato, può essere acido, a volte dolce, e qualche volta se la crosta è un po' bruciata si può percepire l'amaro. Quindi le sensazioni, diciamo, che riguardano il gusto sono 5 e si attribuiscono, diciamo, a questo senso, diciamo, molta importanza, più di quella che in effetti ha. Io direi che l'olfatto dovrebbe riacquistare, insomma, qualcosa che è stato tolto, diciamo. Le sensazioni olfattive sono tantissime e sono quelle che ci fanno riconoscere anche la differenza tra un alimento ed un altro, e a volte anche tra le persone, quello che diceva la professoressa Graziottin. Dottor Pellicano, io la ringrazio e quindi da lei abbiamo capito che il sapore è una percezione più complessamente composita, che risulta proprio dalla combinazione di due sensi separati. In bocca la combinazione di tutte, diciamo, queste specifiche sensazioni, cioè tra olfatto, gusto e altre sensazioni chimiche. Grazie al dottor Pellicano per essere stato con noi. Grazie. Buona giornata. Buongiorno. Allora, noi parleremo del gusto inteso proprio come senso nell'avvicinarci ad un alimento, a gustarlo, ma parleremo anche del gusto delle nostre relazioni. E io vi invito a rispondere a questa semplice domanda. Provate ad utilizzare una delle sensazioni che ci ha descritto il dottor Pellicano, quelle che delimitano il nostro gusto, quindi dolce, acido, amaro e salato, per descrivere voi stesse. Nel corso della nostra trasmissione il dottor Traverso, psicologo e psicoterapeuta, proverà a fare un breve profilo. Allora, abbiamo capito che è l'olfatto a offrirci percezioni più sottili, più diffuse, che completano, se vogliamo, questa esperienza sensoriale. Per questo, quando siamo raffreddati, il cibo perde sapore. Ma non sono solo i virus ad attentare alla salute, mi passi il termine, del nostro gusto, ci sono altri nemici. Assolutamente sì, il primo nemico terribile è il fumo. Dobbiamo sapere che il fumo ha un'azione tossica, potremmo dire narcotizzante, sulle nostre papille gustative, oltre che sul sistema olfattivo, e va ad appianare e a rendere più grigia quella splendida possibilità di cogliere le sfumature dei cibi, di assaporare, di cogliere il dettaglio di una preparazione, di entusiasmarsi e veramente provare una gioia profonda nell'assaporare un cibo non solo preparato con cura, ma che abbia ingredienti naturalmente freschissimi e poco elaborati, che ci consentano quindi quasi di riconoscere la terra da cui per esempio una verdura nasce, da cui un frutto nasce, un pesce, l'acqua da cui viene. Questa capacità di rispettare i fondamentali del cibo, la sua freschezza, ma anche avere noi dei recettori, delle antenne assolutamente sani per poterli gustare. Quindi fumo, attenzione. Poi alcol, ovviamente non il bicchiere di vino che addirittura può esaltare il piacere di un cibo preparato con cura, ma l'eccesso di alcol. E definisco subito l'eccesso di alcol. Per eccesso si intende sopra i 2 bicchieri, 2 unità alcoliche al giorno per l'uomo, ma attenzione, per le donne 1 bicchiere al giorno, 1 unità alcolica se parliamo di vino, 1/4 se parliamo di birra o 1 superalcolico. Perché? Perché la donna ha un metabolismo epatico molto più lento, potremmo dire, in termini semplici, è molto più vulnerabile agli effetti tossici dell'alcol, sia a livello sistemico sia a livello cerebrale. Basti dire che la donna che beve più di 2 bicchieri di vino al giorno, 2 o più, ha un aumento del rischio di tumore alla mammella del 75% rispetto al rischio basale, che è del 10%. Quindi donne, attenzione, perché adesso abbiamo dati molto allarmanti sul fatto che le donne tendono a bere sempre di più e tendono a bere sempre più giovani. Quindi, siccome il gusto è anche il sapere assaporare il vino, benissimo un vino di qualità, 1 bicchiere. Quando va a cena col fidanzato o il marito e bevono esattamente la stessa dose, non è una buona cosa, perché ripeto, noi donne siamo più sensibili. Terzo grande nemico, e questo piuttosto, diciamo così, indiscriminato, è l'invecchiamento. Con l'invecchiamento noi abbiamo un'involuzione delle papille gustative ed ecco che capiamo una cosa molto importante, soprattutto dopo la menopausa, quando la carenza di estrogeni va a dare ancora più un danno profondo alla struttura della papilla gustativa, ma anche al sistema nervoso centrale che la recepisce. E allora capiamo una cosa che abbiamo tutti colto nelle nostre nonne, che le nostre nonne prendono, zuccherano di più per esempio il caffè, ossia hanno una soglia più alta per i cibi dolci, ma anche per il salato, quindi salano di più i cibi. Ecco che allora, se noi conosciamo le basi delle cose, possiamo capire anche quei cambiamenti comportamentali che uno dice dipende dalla psicologia. No, dipende dall'invecchiamento delle papille gustative. Quindi, attenzione, poi altro nemico, i virus influenzali. Molti di noi notano quando hanno l'influenza, non solo, come lei diceva giustamente, che se siamo raffreddati cogliamo meno il sapore e il profumo dei gusti, ma questo è un effetto transitorio, ma molte persone notano invece un danno più importante, per esempio un'alterazione del gusto. In questo senso, noi sentiamo il profumo del caffè, magari un caffè buonissimo, e invece la percezione è di caffè tostato, quindi abbiamo un'alterazione percettiva che è a livello olfattivo e a livello gustativo determinata dal virus. Questo può durare qualche mese o addirittura essere definitivo, e questo è un danno molto importante. Infine concludo, i danni da farmaci. I più grandi nemici del gusto, dell'olfatto, purtroppo lo sanno i pazienti, sono i chemioterapici, ma voglio ricordare anche altri farmaci, per esempio che le donne utilizzano dopo la menopausa, quando hanno per esempio un'urgenza menzionale. Bene, alcuni dei farmaci per calmare tra virgolette l'ipereccitabilità della parete vescicale ci danno anche una sensazione fastidiosissima di bocca secca, che si ripercuote poi sia sul gusto sia anche per esempio sulla capacità di parlare in maniera fluente o di far capire bene quello che si pronuncia quando si parla al telefono. Molti di voi mi stanno già scrivendo al 349-238-6666, avete accolto il mio invito a usare una sensazione del gusto per definirmi. Marco da Torino mi scrive, io mi definisco agro, mentre Luca, mia moglie, dice che sono un babà avariato. Ma in linea con noi abbiamo Marco dalla provincia di Lecco. Buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno professoressa. Marco. Sì, buongiorno. Se lei dove... Buongiorno a lei, che ha una domanda o vuole raccontarci qualche cosa di sé e associarlo quindi ad una sensazione di gusto? Ho una domanda relativamente a mia figlia. Sì. Che ha 7 anni e circa da 3 anni in Italia, arriva dall'Etiopia. Sì. Non riesce a entrare nel gusto, diciamo, nostro. Volevo chiedere se il sapore che ha provato quando era bambina, fino ai 3 anni, sono oramai troppo radicati nella sua memoria, nelle sue sensazioni, e se è possibile educarla a un gusto diverso da quello che lei ha. Marco, passo subito alla domanda alla professoressa Graziottin, che sarà lieto di rispondere, perché professoressa Graziottin... È una domanda di estremo interesse. Intanto saluto Marco, buongiorno a lei. Direi che la bambina ci sta dicendo, noi dobbiamo prima di tutto comprendere che cosa ci dice un comportamento di un bambino, e lei ha colto molto bene che in qualche modo questa bambina, con questo radicarsi nei cibi della sua infanzia, dice anche il suo bisogno di appartenenza a quella cultura, la sua identità è quella, e quello che noi mangiamo da piccoli caratterizza fortissimamente il senso di chi siamo, di chi sono le persone che sono state preziose per noi, anche se poi per destini infelici ci hanno abbandonato, e comunque quali sono le nostre radici. Allora, in questa situazione è molto importante condividere con questa bambina il suo cibo. Questo è un suggerimento che le do a pelle, perché è una domanda talmente inusuale, complessa, certo, e molto concreta, ma quello che io farei è un mirroring gustativo. Che cosa si intende con il mirroring? Quando noi vogliamo entrare in contatto con una persona, dovremmo prima di tutto imitare quello che questa persona fa, desidera, ama, e quindi in questo caso il mio suggerimento a lei e sua moglie sarebbe quello di preparare con cura, perché naturalmente facendoseli spiegare bene, le ricette, i cibi etiopi, e poi ogni giorno introducendo anche un cibo italiano. In questo modo la bambina non vedrà una cesura netta, un rifiuto, perché lei percepisce un rifiuto se noi le proponiamo un cibo completamente diverso, ma vedrà l'integrazione, e l'integrazione che passa attraverso il cibo ha delle valenze profondissime di tipo affettivo, sulla linea della tenerezza, della cura di sé, dei profumi. Questa bambina ritroverà nella casa che ora abita e dove è amata gli stessi profumi che aveva quando era piccina, e questa transizione, questa continuità olfattiva, che è di sentimenti, che è di amore, che è di cura, perché è chiaramente una famiglia italiana che abbia questa attenzione, mostra davvero un amore profondo, un grande rispetto, ripeto, per le radici di questa bimba, nello stesso tempo, giustamente, con il desiderio di portarla a conoscere, ad apprezzare anche un altro mondo, ma senza, tra virgolette, tradire il mondo precedente. Arriva un messaggio da Marco: perché alcuni cibi che ci piacevano da piccoli ora da adulti non ci piacciono più, e viceversa? Come mai alcuni gusti cambiano? Possono cambiare per molte ragioni, per esempio perché abbiamo associato quei cibi a quella fase della vita, e in qualche modo, per esempio il riso col latte, me ne viene in mente una tipica che si danno i bambini, ci sembra che non sia più adeguato all'età adulta. Oppure, altro aspetto molto interessante, soprattutto se il viraggio avviene dopo la pubertà, per un'altra ragione molto più interessante dal punto di vista biologico, ed è l'effetto che gli ormoni sessuali hanno sull'apparato olfattivo e sull'apparato gustativo. Noi abbiamo un nettissimo arricchimento, potremmo dire, della gamma cromatica, della ricchezza percettiva degli odori e dei sapori dopo la pubertà. Per esempio, nelle donne noi abbiamo una nettissima fortissimo incremento della capacità discriminativa in fase ovulatoria, quando c'è il picco non solo degli estrogeni ma del testosterone, le donne hanno più naso, tra virgolette, e più sottilmente capacità di gusto degli uomini, ma dopo la menopausa la perdono e riprendono le stesse abilità e lo stesso livello discriminante dei maschi. Quindi le ragioni possono essere di tipo psichico, affettivo, quindi i viraggi di età o i cambiamenti o anche il fatto di essere, aver la fortuna di poter assaporare cibi che da piccoli non ci vengono proposti, ma l'altro molto importante è invece il cambiamento biologico, per cui gli ormoni modulano in maniera potentissima sia la nostra capacità gustativa agendo sulle papille gustative, sia la capacità olfattiva agendo a livello dell'epitelio olfattorio, ma anche a livello del sistema nervoso centrale. Buongiorno Silvio, benvenuto. Buongiorno Nicoletta. Io soffro da tanti anni di ipersensibilità olfattiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho una percezione degli odori amplificata di parecchie volte sulla media collettiva, e la cosa mi ha creato a volte anche grossi problemi oltre alla mia utilità. Come tu sai, ci diamo del tu, perché mi hai presente chi sono? Dalla voce mi sembri Silvio Bessone, l'artista del cioccolato. Sì, cadi a fagiolo io. Allora, perché poi noi rispondiamo, noi, la professoressa Graziottini è in linea e sicuramente se tu hai una domanda o una richiesta ti darà un'indicazione, ma io approfitterò di te perché a proposito di gusto ci farai un mini corso in diretta di degustazione di cioccolato. Allora, tu hai un'ipersensibilità olfattiva, questo ti ha portato dei vantaggi e degli svantaggi, ma quanto a gusto? Beh, il gusto è strettamente correlato al naso, solo che io ho proprio questa particolare predisposizione nasale, e quindi spesso la percezione che ho al naso è molto molto superiore a quella che ho poi col palato. Certo, e quindi si crea un po' uno squilibrio. Professoressa Graziottin, ma se il naso prende il sopravvento? Guardi, per associazione, che credo possa interessare anche gli ascoltatori, mi viene in mente l'iperosmia transitoria che hanno le donne in gravidanza. Molte donne ci dicono che hanno un'ipersensibilità agli odori, in particolare a quelli tra virgolette cattivi, e questo può diventare un problema. Allora in genere si diceva è addirittura una questione psicologica, un rifiuto della gravidanza del bambino. Errore, assolutamente no. Mi piace, errore. C'è una base biologica interessantissima, ossia durante la gravidanza noi abbiamo una neurogenesi, ossia un aumento dei neuroni dell'apparato olfattivo periferico e quindi un aumento delle antenne che colgono gli odori esterni, ma la finalità, perché tutto succede in natura per delle buone ragioni, è di consentire alla mamma di avere una capacità discriminativa ancora più fine nel riconoscere immediatamente l'odore del proprio cucciolo, del proprio piccolo, rispetto agli altri odori. Tanto vero che poi dopo la gravidanza, una volta che si è assestato questo riconoscimento finissimo olfattivo che la mamma per il proprio piccolo e il piccolo per la propria mamma, questo lo vediamo benissimo anche negli animali, ecco che l'iperosmia si riduce perché la neurogenesi si riduce, il numero di cellule olfattorie torna ai livelli, diciamo così, pregravidici, e questo fenomeno torna alla normalità. Quindi è interessantissimo vedere come ci sia una possibilità addirittura di moltiplicazione neuronale nell'apparato olfattorio, che è la stazione più periferica tra l'altro dell'apparato nervoso centrale, che ci dice quanta plasticità ci sia nel nostro cervello anche in rapporto, come già menzionavo prima, con gli ormoni sessuali, in particolare in gravidanza quando gli estrogeni vanno alle stelle. Ma per il nostro amico Silvio Bessone, che un uomo non è in gravidanza, che cosa può essere? Guardi, bisogna parlare poi con gli esperti di iperosmia, però possiamo avere delle spiegazioni sia di ordine periferico e quindi noi possiamo avere sia dei danni, che per esempio virali, che portano a ridurre, ma possiamo avere anche delle amplificazioni, e poi a livello centrale delle iperosmie. Bisogna vedere il suo livello di testosterone, perché il testosterone ha un effetto di nuovo positivo su una neurogenesi periferica, quindi magari lui ha questo testosterone molto alto. Professoressa Graziottini, noi abbiamo già dedicato una puntata intera al testosterone, la rifaremo perché entra in un sacco di faccende. Essere e benessere. Eccoci, siamo tornati insieme, siamo in attesa dei preziosi consigli di Silvio Bessone. Quindi Silvio, dacci tre passaggi per dire come si degusta correttamente una tavoletta di cioccolato, perché sia un piacere per tutti i sensi. Ma guarda, nelle tavolette di cioccolato ovviamente come di consueto il colore è la vista è il primo senso che viene azionato, l'udito per sentire lo scrum del cioccolato, ma il naso è molto importante, perché diciamo che i cioccolati vanigliati questo problema ce lo risolvono, perché la prima sensazione è quella vanigliata. Ma io ho aperto il museo del cioccolato dove ho inserito un annusario. Che cos'è? È un tubo, è un espositore di 29 varietà di cacao crudo, sì, dove si può annusare quelli che sono, infatti si chiama proprio annusario, si possono annusare quelle che sono le percezioni olfattive che ogni singolo cacao crudo rilascia. E questo serve perché ti aiuta a poter identificare le provenienze del cacao, certo, le caratteristiche che poi riscontri nelle tavolette. Però quindi, io voglio assaggiare, voglio questo pezzetto di cioccolato metterlo in bocca, chiudo gli occhi, lo faccio sciogliere. Intanto è fondamentale che il cioccolato non sia troppo fine, ma nemmeno eccessivamente spesso. Sì. Viene ospitato tra la concavità superiore della lingua e il palato superiore, e bisogna attendere alcuni istanti. Uno più attende, potrei dire anche 30, 40, 50 secondi prima di masticarlo e di mangiarlo, serve per portare in temperatura ideale ed avere una giusta, diciamo, miscelazione con la saliva, perché poi tutti i sapori si portino a disposizione della bocca. E quindi Silvio, tu ci hai detto una cosa con cui ha aperto la professoressa Graziottin, per gustare ci vuole tempo per assaporare. Grazie a Silvio Bessone, complimenti per il suo museo. Mi scrive un ascoltatore: fate una prova, bendati, mangiate una mela con una fetta di pera sotto il naso, è da ridere. Ve la passo se volete provarla. Intanto io vado a salutare Giuseppe dalla provincia di Monza. Che puntata gustosa con tanti ascoltatori. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno anche alla professoressa. Bene. Buongiorno a lei. Volevo fare una domanda ed è questa. Parecchi anni fa ho fatto dei fumi perché avevo un raffreddore molto forte. Non ricordo cosa ho messo dentro e dopo qualche giorno non sentivo più i profumi come prima e non li sento più tuttora come prima. Cosa può essere successo? Giuseppe, volevo farle anche un'altra domanda. Sì. Sono stato in collegio che avevo 6 anni, adesso ne ho molti di più. E 10 anni fa mia moglie ha comprato una saponetta e io quando ho sentito questo profumo mi è venuto in mente immediatamente il profumo del sapone che usavo in collegio. Immediatamente. Perché c'è una memoria, la memoria olfattiva. Professoressa Graziottin, vede come questi due sensi che vanno così a braccetto vengono così, ritornano alle domande dei nostri ascoltatori. Parlando di gusto, arrivano anche domande sull'olfatto. Separarli, la verità della vita, ecco, separarli è difficile. No, non ha senso. E due riflessioni. Per quanto riguarda la prima domanda, vorrei far notare al nostro ascoltatore che probabilmente non sono tanto i fumi ad aver causato questa riduzione percettiva olfattiva, quanto piuttosto molto probabilmente la virosi che aveva provocato il raffreddamento, che l'aveva portato poi a farsi anche questi fumi per trovare un po' di sollievo a livello respiratorio. Questa è la prima osservazione. La seconda, Proust ce l'ha insegnato molto bene, ma lo sapevamo, che l'olfatto ha un senso straordinario perché ci consente di ricordare per memorie complesse. Che cosa significa? Che quando noi sentiamo un particolare odore, in particolare un odore caratteristico di qualche ambiente, di qualche esperienza dell'infanzia, è come se attivassimo il film di quella fase della vita, quindi ci torna alla memoria non solo quegli odori, ma immediatamente il luogo dove li abbiamo sentiti, le persone, le emozioni, le musiche. È incredibile quanto l'olfatto abbia una potenza evocativa su tutti gli altri sensi, sulla nostra memoria, proprio perché l'olfatto è un senso, anche in noi che siamo microsmatici, cioè con un piccolo apparato olfattorio rispetto agli animali macrosmatici che hanno una dominanza di questo senso. Bene, noi sappiamo che l'olfatto in verità è importantissimo anche per noi, perché attiva, potremmo dire a raggiera come un'onda in uno stagno, tutti gli altri sensi, la memoria di chi eravamo, di chi siamo stati, di quali sono stati gli eventi importanti per noi, proprio con questa identità di tipo olfattivo. Vorrei dire però una cosa importante sul gusto, che è utilissima per tutti gli ascoltatori, e cioè pensiamo un po' al gusto dei baci e quanto il gusto dei baci vada di nuovo a braccetto con la, diciamo, preferenza, il desiderio per l'odore di quella pelle, e come di converso, quando una coppia è in crisi profondamente, non ci si baci più, il gusto dei baci non piace più e l'odore della pelle non piace più. In altre parole, anche quella che è l'affiliazione, cioè il piacere di stare vicino a un'altra persona, non solo innamorato, pensiamo anche al piacere di dare un bacio al proprio figlio, al proprio nipotino, o l'avversione, quando in una coppia, ripeto, c'è una frattura profonda, io chiedo sempre, lo bacio ancora volentieri? La bacio ancora volentieri? Se la risposta è no, e vedi dalla faccia che quasi c'è una, diciamo così, un'avversione profonda, la prognosi è, diciamo così, riservata. Professoressa Graziottin, non a caso si dice ti mangerei di baci. Ma guarda questi occhi miei. Non si scorda mai, gusto e olfatto, abbiamo detto due sensi che vanno in coppia, entrambi sensi chimici che guidano non solo le nostre scelte alimentari, ma che hanno anche a che fare con la nostra affettività, con l'attrazione e con l'avversione. Assolutamente sì, perché le basi potenti dell'attrazione sessuale sono, a parte la vista, eccetera, eccetera, ma i feromoni, queste sostanze chimicamente attraenti che noi percepiamo innanzitutto attraverso l'olfatto, per cui anche a distanza di qualche metro noi siamo colpiti dall'odore a livello subliminale di una persona rispetto a un'altra, e questo odore ci colpisce se il sistema di immunocompatibilità, immunoistocompatibilità di quella persona è molto compatibile con il mio. Perché? Perché dal punto di vista sempre delle ragioni biologiche, perché nulla succede a caso della nostra natura, il piacersi indica che c'è un'eccellente compatibilità dal punto di vista procreativo e che quindi da questa unione potrebbero risultare i bambini particolarmente vitali. Questo, ripeto sempre, non ha niente a che vedere con la capacità paterna o materna, né con l'opportunità poi contestuale di passare dal desiderio all'atto, ma predice questa compatibilità elevata per il successo riproduttivo. La cosa interessante è che anche il gusto può recepire feromoni, anzi li recepisce, e questa è la ragione per la quale quando noi amiamo l'odore di una persona, in genere amiamo anche il gusto dei suoi baci. Di converso, come dicevo, se c'è avversione per l'uno, c'è avversione per l'altro. La cosa interessante è che vediamo in particolare nella donna che quando ama il gusto dei baci di un uomo, tra virgolette, perde le rotelle subito, ossia c'è una capacità di abbandono, di eccitazione mentale, cerebrale e periferica, generale e genitale, per cui la donna veramente perde il senso del tempo, per esempio, anche l'uomo, ma la donna di più. Ed è interessante perché il percepire questi feromoni dice non solo la compatibilità, ma crea una disponibilità fisica al rapporto, perché crea una disponibilità, una potenziale fecondazione. Queste sono le basi biologiche dei comportamenti. Poi ripeto, cultura, opportunità, rispetto, situazioni ci fanno decidere altrimenti, ma se noi guardiamo le basi biologiche che ispirano i nostri comportamenti, certamente olfatto e gusto sono due gemelli formidabili. Professoressa Graziottin, lei mi ha mandato in crisi Angela, che mi scrive al 349-238-6666. Adesso che la professoressa Graziottin lo dice, mi sto rendendo conto che io e mio marito non ci baciamo più come una volta. E questo è un grande termometro. Io vorrei chiedere, potremmo fare un'intera puntata, cara Nicoletta, facciamo una puntata sul bacio delle coppie attraverso i baci. Per esempio, noi vediamo che nel tempo la coppia si dà il bacino sulla guancia, magari manco quello, rimane il rapporto genitale, ma progressivamente viene perso questo gusto di comunicare attraverso la bocca, di baciarsi profondamente, lentamente, dolcemente, appassionatamente, che è il grande termometro della affinità in quel momento dell'intesa, del desiderio e tra l'altro il grande attivatore di una risposta poi fisica di qualità con un'erezione gloriosa, come dico io, nell'uomo, e una risposta lubrificante e orgasmica potente nella donna. È il bacio che attiva tutto il circuito, perché attiva questo senso di affinità, di desiderio, di esplorazione, di entrare l'uno nell'altro, nella mente, nel corpo, e di non sentire più nulla. Noi perdiamo il senso del tempo quando baciamo appassionatamente, tanto vero che poi uno quando è fidanzatino guarda l'orologio, mamma mia, ore e pensavano 2 minuti. Vogliamo rispondere a Luigi che ci scrive se ci sono, se lei in persona ha fatto delle ricerche su quanto deve durare un bacio perché sia gustoso, me lo mette tra virgolette. Lui dice non meno di un minuto. Professoressa Graziottin, dobbiamo dare anche una durata? Non è più una questione di tempo, ma di passione, qualità, di qualità, di saper assaporare, abbandonarsi, ascoltare quello che l'altro ci dice, non solo con i movimenti, ma con la chimica. E poi quando noi baciamo abbandonandoci, cambia il respiro, cambia il tono muscolare, cambia la frequenza cardiaca, cioè tutto il corpo passa dal comandante dei tempi di guerra, che è quello sotto l'adrenalina, al comandante dei tempi di pace, che è il nervo, diciamo il sistema vagale parasimpatico, e questo porta tutto il nostro corpo a mettersi in quella lunghezza d'onda, per dirlo in termini semplici, che consente poi un abbandono profondo e quell'appagamento che poi ci viene quando abbiamo partecipato profondamente alla verità di quell'intimità. Di converso, quando il braccio è frettoloso, noi siamo sotto il comandante dei tempi di guerra, e quindi che duri un minuto, che duri 5 minuti, è un bacio che non ha anima. Essere e benessere. Adesso voglio parlarvi di occhi, in modo particolare di un disturbo che può interessare la palpebra o la congiuntiva. Vorrei parlare con voi di calazio. È un'infezione che si presenta all'inizio con sintomi abbastanza lievi, un leggero gonfiore, una piccola pallina ai bordi della palpebra o un senso di fastidio, come per la presenza di qualcosa nell'occhio. Ma poi alla fine, col passare dei giorni, diventa sempre più fastidioso. E allora, che cosa fare? In linea con noi il professor Filippo Cruciani. Buongiorno. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Il professor Cruciani, oculista, ricercatore al Dipartimento di Oftalmologia all'Università La Sapienza di Roma e consulente della IAPB, l'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità. Professor Cruciani, io l'ho definito un po' così come una pallina, no, ai bordi della palpebra, ma in realtà il calazio può svilupparsi anche all'interno, giusto, verso la congiuntiva palpebrale. Ma che cos'è il calazio e perché si forma? Ma guardi, il calazio, per darne una definizione classica, è un'infiammazione quasi sempre cronica, granulomatosa di una ghiandola di Meibomio. Queste ghiandole di Meibomio sono delle ghiandole che si trovano all'interno della palpebra, sì, e sono ghiandole che producono muco sebo e sono delle ghiandole ramificate che a un certo momento, per una causa che ci sfugge, almeno non ne conosciamo... Non l'avete ancora trovata, insomma? No, ancora. Sì. Sicuramente intervengono molti fattori. Sì. Queste ghiandole producono un sebo, un muco più denso, per cui subiscono una sorta di occlusione e quel sebo resta bloccato all'interno della ghiandola e non riesce a fuoriuscire, per cui si forma un'infiammazione, una sorta, noi lo chiamiamo granuloma, e questo granuloma infiammandosi determina quello che lei chiamava quella pallina, quel nodulino che può estrinsecarsi sia all'interno che all'esterno della palpebra. Professor Cruciani, dalla sua descrizione mi sembra che il calazio sia una sorta di foruncolo della nostra palpebra. In un certo senso sì, poi quando questa infiammazione, questo nodulino subisce un processo di infezione, perché sì, c'è una sovrapposizione batterica per lo più dovuta a uno stafilococco, allora si forma un piccolo ascesso e allora usiamo l'altro termine, che è il termine di orzaiolo, che è poi un termine volgarmente molto più diffuso e molti chiamano anche il calazio come orzaiolo. solo, ecco. Ed è una patologia che si conosce da sempre, infatti, anche perché è molto frequente. Infatti, professore, non so se glielo diceva anche la sua nonna, ma la mia, io da piccola soffrivo di orzaioli, mi ricordo che mi diceva: appoggia l'occhio sul collo della bottiglia, giusto, e guarisci. Sì. Però, insomma, io poi dell'orzaiolo guariva da solo, ma comunque ci sono tanti suggerimenti delle nonne che proprio mirano a trovare un rimedio per questo piccolo pallino così fastidioso, che a volte recidiva, professor Cruciani. Certo, sì, è fastidioso perché prima di tutto non abbiamo una terapia specifica che lo faccia regredire in termini brevi. Se si va dall'oculista, ecco, si hanno prescrizioni molto diverse. Chiaramente l'antibiotico non serve se non c'è l'infezione, se non è un orzaiolo l'antibiotico assolutamente non serve. Mm. Gli oculisti spesso danno il cortisone, il cortisone è un ottimo antinfiammatorio e certamente la componente infiammatoria un po' la riduce, però il carazio non è che regredisca completamente. I vecchi rimedi della nonna sono ancora prescritti, come per esempio si sente dire faccia impacchi con la camomilla, faccia impacchi col tè, si sentono un po' tutte queste cose che possono essere più o meno utili. Molto diffuso è l'uso anche così, non solo nel nostro paese ma anche all'estero, di pomate a base di zinco di mercurio, l'ossido giallo di mercurio è molto utilizzato. E funziona? Diciamo è variabile, alcune volte si ha una buona risposta, altre volte invece l'infiammazione diventa cronica, si forma questo nodulino più o meno fastidioso che sta lì e allora è opportuno ricorrere a una terapia chirurgica, cioè si svuota direttamente questo granuloma e chiaramente regredisce totalmente la patologia, insomma. Professore, quindi se il problema persiste si ricorre all'intervento, così possiamo dire. Volevo chiederle sulle cause, ho capito che sapete poco, ma riguardo ai fattori di rischio, alle persone che sono più predisposte ad avere questo problema, le avete individuate? Sicuramente chi soffre di blefarite va più incontro a forme di calazio e la blefarite è l'infiammazione del bordo palpebrale. Sì. In questo, come fattori di rischio, può sembrare strano, ma sicuramente intervengono anche difetti di vista come l'astigmatismo e l'ipermetropia che causano spesso, possono causare delle blefariti. Poi c'è una causa che tutti conoscono, a cui noi ricorriamo spesso, però dire quale sia effettivamente la sua influenza è difficile dirlo, che è diciamo un'alimentazione non corretta, un uso eccessivo di cioccolata, come normalmente si dice, oppure di grassi e via dicendo, ecco. Non è che sia la causa specifica, sicuramente anche questo interviene. Insomma. Professore, vorrei una risposta per Carla da Rovigo che ci scrive: ho un orzaiolo, credo non sia un calazio dalla vostra descrizione, posso mettere le lenti a contatto o è meglio per un paio di giorni evitarle? No, è meglio evitarle. Quando la palpebra o la congiuntiva sono infiammate, le lenti a contatto le lasciamo un attimo riposare, inforchiamo gli occhiali. Però, professor Cruciani, quello che possiamo dire di questo calazio è: proviamo con le pomatine locali, se il problema persiste l'oculista è la persona più indicata per suggerirci se è il caso di intervenire chirurgicamente. Perfetto, sì. Ho imparato. Professor Cruciani, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei e ai radioascoltatori. Ridere fa bene, fa benissimo, ma se non riuscite a ridere, non avete occasioni per ridere o per sorridere, fermatevi con noi perché ci aiuta, Laura Toffolo, è in linea con noi, buongiorno. Buongiorno. Presidente dell'Associazione Yoga della Risata, mi viene già da ridere, Laura. Sì, infatti, quando si parla di yoga della risata sono molte le persone che ridono già subito. Invece è una Laura, invece è una cosa seria, e le persone che prendono la vita sul serio sono quelle che poi riescono anche a sorridere. Sì, assolutamente sì, perché poi alla fine c'è sempre qualche cosa di positivo in tutto. Laura, innanzitutto cerchiamo di capire bene in che cosa consiste questo yoga della risata, da dove arriva? Innanzitutto arriva dall'India, il paese dello yoga, ed è una creazione di un medico indiano che si chiama Madan Kataria, e che nel 95 ha tirato fuori questo metodo per vivere senza motivo. Infatti noi ridiamo senza bisogno di usare barzellette, gag, senza anche avere il senso dell'umorismo, ma ridiamo in modo simulato, senza motivo appunto. E questa risata da simulata presto si trasforma in una risata spontanea, perché lo facciamo in gruppo e c'è il contatto visivo fra noi, e cioè, è contagioso, no? Come tutte le cose contagiose, quando uno comincia a ridere gli altri poi gli vanno dietro. E poi facciamo anche molte respirazioni, per questo ha preso il nome di yoga della risata, perché respiriamo, facciamo dei respiri profondi, facciamo una specie di esercizio per attivare la risata stimolata che ricorda un po' il Kapalbhati, che è una tecnica di purificazione dello yoga, più che fare delle vere e proprie asana, quindi riguarda proprio la respirazione. Ossigenandosi di più anche il nostro cervello è più ossigenato, quindi ci sentiamo meglio, ci sentiamo più leggeri, più creativi. Senti Laura, dato che non possiamo vederci, ma sì, possiamo solo contare sulla forza della parola, certo, che è una magnifica forza, sì, soprattutto quando viene sentita dal cuore, parte proprio dalla pancia. Proviamo a fare una respirazione a proposito di pancia. Assolutamente sì. Siamo pronti? Pronti. Noi facciamo anche questa respirazione che finisce con una risata, cioè invece di espirare ridiamo, per esempio. Adesso facciamo un respiro normale e poi dopo un respiro dove invece di espirare tiriamo fuori la risata. Proviamo? Proviamo. Ok. E respiriamo normalmente. Inspiro, trattengo, espiro. E adesso inspiriamo. Trattengo, trattengo, trattengo e... invece di espirare noi ridiamo, per esempio. Questa è una tecnica che possiamo adottare. Laura, quindi ridere è facile come respirare, questo mi viene. Assolutamente, è una forma di respiro. Che mette in atto tutta una serie di cambiamenti e scioglie, certo, molte tensioni. Talvolta, certo, siamo troppo rigidi, perché anche ridere, sorridere a volte è difficile, ma insomma è anche un po' impegnativo, a livello anche muscolare, a livello respiratorio. Sì, ma se si fa appunto in gruppo giocando, perché noi usiamo proprio la risata come forma di esercizio, come un gioco, abbiamo il titolo delle risate, no? Per esempio facciamo la risata, per esempio per radio possiamo fare la risata del cellulare o del telefono appunto. Dai, fammela. E noi stiamo al telefono, invece di parlare ridiamo e quindi e cominciamo così. Poi chiaramente attivandoci più di una persona questa risata diventa molto più forte, chiaramente. Però anche questa risata, diciamo fra virgolette, stimolata, fa bene lo stesso, perché è un dato scientifico che il nostro corpo non sente la differenza tra una risata, diciamo, stimolata, soprattutto se fatta con volontà, e una risata vera. E sta bene lo stesso, perché si attivano dei meccanismi biochimici potentissimi, appunto come dicevi anche tu prima. Buona risata, Laura. Grazie. E buona risata anche a te. Grazie. Grazie. Buona giornata. Buona giornata, ciao. Ciao. E per oggi è tutto. Un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.